Questa notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Se ci sono delle domande, rapidamente rispondo. Non vorrei farvi perdere Sanremo. Cin cin, tesoro. Che fai? Sto a prendere l'aperitivo. Ma con chi? È con una mia amica. Una tua amica? Sì. E ti pare il caso di stare con un'amica a prendere l'aperitivo? Me la fai vedere un attimo? È qua. E prendi la mano a un'amica, che è? Si è dimenticata di fare una la scimmia. Una scimmia. No, ma che cosa? Beh, insomma, visto che l'ha detto persino Renzi una volta presentata la sua squadra, non voglio farvi perdere tempo per seguire poi Sanremo, anch'io volevo darvi giusto un assaggio dell'inizio della quarta serata di Sanremo, ma diciamo che oggi dopo 2 ore e 30 è stata finalmente sciolta la riserva, come si dice, da parte di Matteo Renzi. Dopo tutto questo tempo, tutta questa febbrile attesa, possiamo dire che più che sciolta è stata liquefatta praticamente questa riserva. Renzi ha detto però, dovendo fare un governo di 4 anni, l'aver impegnato 2 ore e mezzo è un tempo di messa a punto ben investito. Effettivamente, diciamo, per uno veloce come lui, uno che insomma non spreca tempo, parla anche di un buon investimento per queste 4 ore. Lo giudicherete voi se vi piace questa squadra di 16 ministri, 16, dice solo De Gasperi ne ha fatti di meno, insomma, quindi è già un governo snello, metà donne, metà uomini. Come lo giudicate? Avrete modo anche di sentire man mano che ve ne parlo, e ci saranno gli ospiti poi a valutarne, diciamo, il livello, voi naturalmente con le vostre libere opinioni, e cercare di capire anche di più come sono stati fatti, se possibile, questi nomi e anche dove andrà questo governo Renzi. Vi ricordo sempre che c'è la pagina Facebook effetto notte-roberta giordano, oppure i messaggi sempre per le vostre opinioni 349-238-6666. Vi convincono questi nomi? C'è un nome che dite, ma proprio questo da dove l'ha tirato fuori, da quale cilindro? Bene, e io direi che a questo punto possiamo quasi partire. Vi dico solo che i suoi genitori, che tutti cercavano, se la sono data a gambe, sono partiti per gli Stati Uniti. Bene, mi dico che c'è qualcuno al telefono? Ah no? Certo. Ah sì, eccezionalmente questa sera, siccome non è una cosa che faccio d'abitudine, c'è il numero verde per voi. Questa è una grande esclusiva qui a Effetto Notte, 800 24 00 24. Se volete intervenire in diretta, lasciate perdere i messaggi. C'è la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero di telefono. Finalmente questa sera approfittate, ne lasciate perdere invece gli SMS. 800 24 00 24 per dire se siete soddisfatte, soddisfatti di questa squadra di governo, quali sono le vostre prime riflessioni. Insomma, adesso io vi racconto nel primo quarto d'ora come sempre la giornata e poi andiamo soprattutto in modo più o meno monografico sul tema. Nasce il governo Renzi, metà donne, metà uomini, ora mi gioco la faccia, dice il nuovo premier. Ucraina, la piazza Kiev accetta l'accordo col presidente Yanukovych, elezioni entro il 2014. Inflazione ferma dallo 0,7%, ma al supermercato i prezzi crescono del doppio. E per le Olimpiadi invernali, fuori dai giochi di Sochi per doping, uno degli azzurri del bob, la Fontana invece eliminata dai 1000 metri di short track. E partiamo quindi da questa nuova squadra messa in campo e messa a punto da Matteo Renzi, dal novello ormai conclamato, diciamolo, presidente del Consiglio, Vincenzo Miglietta. Quanto ci ha fatto aspettare? 2 ore e mezza, quasi 3? Sì, 2 ore e mezza per la precisione. Tutti continuano a chiamare Vincenzo Miglietta, che è lì in diretta da Roma. Allora, sta uscendo. Insomma, sei stato anche tu un po' a tribolare oggi, Vincenzo. Sì, abbiamo aspettato veramente tanto, dalle 16.30 alle 19 di fatto, un'attesa, ma non tanto per i giornalisti che aspettano. Ci si domandava il perché si aspettasse tanto per sciogliere la riserva. Ufficialmente sia Renzi che Napolitano hanno detto che non c'è stato nessun problema. È stato il tempo necessario, in effetti, per fare un buon lavoro, proprio perché Renzi ha detto sarà un governo di legislatura, guardiamo al 2018, però evidentemente qualcosa che non andava ci deve essere. Il sospetto un po' c'è, sì. Sembra nelle ricostruzioni di questi minuti che Renzi sia entrato con una lista e ne sia uscito con un'altra. Addirittura in questo momento qualcuno parla di un governo uscito con l'impronta molto forte del capo dello Stato. Lo vedremo sicuramente nei prossimi giorni, vedendo poi l'esecutivo lavorare. Sì, questo sarà molto, molto interessante, infatti, Vincenzo, anche perché anche Napolitano, appunto, ripeto, non c'è stato nessun braccio di ferro. Ho sentito anche primi pareri, qui Renzi ha preso i suoi amici, le persone a lui vicine, non è un governo di gran livello. Invece tu dici che da quello che dalle indiscrezioni, ultime indiscrezioni, sarebbe uscito invece con una lista dettata soprattutto da Napolitano. Li vedremo alla prova allora, caro Vincenzo. Sicuramente li vedremo alla prova, sono comunque per l'esattezza dei nomi che logicamente vanno bene anche a Matteo Renzi, ma sembra che per esempio sulla giustizia o un nome tra tutti, quello di Padoan all'economia, su questo sia stato molto importante il peso del Quirinale, proprio perché si voleva dare un determinato segnale di stabilità anche ai mercati e ai vertici europei. Mm. Vincenzo, poi domani il giuramento dei ministri e del Presidente del Consiglio? È così, domani alle 11.30 il giuramento e poi l'appuntamento più importante, Roberta, lunedì la richiesta di fiducia di Renzi al Senato e martedì alla Camera. Bene, allora ci risentiremo settimana prossima a questo punto. Grazie Vincenzo Miglietta. Sicuramente. Ciao Vincenzo. Vogliamo sentire anche un pezzettino, uno stralcio del discorso di Renzi dopo appunto questa Camera di Consiglio tra lui e Napolitano così lunga? Sentiamo. Annunciato. Ho sciolto la riserva e quindi avverto la responsabilità, la delicatezza e anche lo straordinario onore che deriva dal dare all'Italia un governo che sia in grado di affidare una speranza, in particolar modo alle nuove generazioni, ma a tutti gli italiani. Quindi inizio con il ringraziare il Presidente della Repubblica e dire che farò di tutto per essere in grado di meritare la fiducia sua, delle deputate, dei deputati, delle senatrici, dei senatori e soprattutto dei milioni di italiani e di italiane che attendono da questo governo risposte concrete. Avete sentito? Questa è la squadra di governo per gli italiani e le italiane che aspettano risposte concrete. Siete d'accordo? C'è il numero verde per voi, 800 24 00 24. Allontaniamoci però per un momento dalle questioni casalinghe, che poi in realtà sono rimbalzate un po' su tutti i media internazionali. La notizia breaking news è diventata in tante parti del mondo, questa della squadra di governo di Renzi, insomma del nuovo governo Renzi. Però dicevo, andiamo all'estero per parlare dell'altro tema molto in primo piano, che è l'Ucraina. Ieri era proprio ormai nel pieno della guerra civile, adesso pare ci sia finalmente una tregua perché l'opposizione ucraina ha deciso di firmare un accordo col presidente Yanukovych. Il compromesso prevede un voto presidenziale anticipato, vero Sergio Nava? Sì, buonasera. Ciao Sergio. Esatto, dalla guerra civile, poi grazie anche alla mediazione internazionale, anche all'Europa che ha finalmente alzato la voce con la minaccia concreta di sanzioni, oggi la schiarita, finalmente l'opposizione ha firmato un accordo col presidente ucraino Viktor Yanukovych, si anticipano le elezioni presidenziali entro l'anno e soprattutto il Parlamento poi ha approvato anche la riforma per limitare i poteri del presidente e si è tornati alla Costituzione del 2004. Ci sarà anche un'amnistia incondizionata per tutti i manifestanti e un governo di unità nazionale che sarà formato entro 10 giorni. Parallelamente partirà anche un'indagine sugli atti di violenza condotta congiuntamente dalle autorità, dall'opposizione e dal Consiglio d'Europa. Le ultime novità sul fronte diplomatico sono che il segretario generale ONU Ban Ki-moon ha parlato con il presidente Yanukovych, ucraino Yanukovych, e lo ha esortato a dare attuazione all'accordo raggiunto con l'opposizione il più presto possibile. E il presidente americano Barack Obama nelle prossime ore chiamerà invece il presidente russo Vladimir Putin sulla crisi ucraina. Ricordiamo anche il ruolo della Russia come contraltare all'Occidente, che è stato poi anche in qualche modo un fattore di divisione proprio tra Ucraina ed Europa, e quindi anche questa telefonata avrà sicuramente un valore. È tutto. Grazie Sergio Nava. E restiamo all'estero per parlare del presidente americano Barack Obama, che ha ricevuto oggi la Casa Bianca e il Dalai Lama. Si tratta del terzo incontro tra Obama e il leader spirituale tibetano, e l'incontro è motivo, come si può capire da tempo, insomma, irritazione per il governo cinese. Ma torniamo sulle questioni italiane e quelle economiche, con l'inflazione che è ancora ferma allo 0,7% a gennaio, secondo l'Istat, ma il carrello della spesa corre il doppio dell'inflazione. ognuno faccia i propri conti in tasca, ma secondo l'Istat i prezzi corrono a più velocità. A gennaio l'inflazione infatti è risultata ancora ferma allo 0,7% e ai minimi da 4 anni, ma al supermercato i prezzi salgono il doppio rispetto all'inflazione, crescendo dell'1,3%, come rivela l'indice Grocery, l'insieme dei prodotti dalla pasta allo shampoo che rientrerebbe nella busta della spesa. Così spiega Federico Polidoro, dirigente servizio prezzi al consumo Istat. Dentro questo 0,7 c'è un aumento che però è sempre meno marcato negli ultimi mesi, soprattutto da gennaio rispetto a dicembre, dei beni che si acquistano al supermercato, 1,3, ma a dicembre era 1,7. Da una diminuzione però dei beni energetici, gas, carburanti del 2,2% e da un aumento invece dei servizi del 3,6%. Il neo indice grocery si traduce in drogherie, supermercati, insomma in tutti i luoghi dove si fa la spesa giornaliera, che non solo comprende il cibo ma anche i prodotti per le faccende domestiche, in primis i detersivi e ancora tutto quello che serve per l'igiene personale, dal dentifricio al deodorante. E allora le nostre spese quotidiane raddoppiano la velocità, però sui prezzi. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il fondo di investimento americano BlackRock, il più grande del mondo, ha in mano il 5% di Intesa San Paolo. Diventa così il secondo azionista alle spalle di Compagnia di San Paolo, che ha il 9,7%, e davanti a Fondazione Cariplo, che ha una quota azionaria di poco inferiore al 5%. Ma torniamo ancora sulla politica italiana. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle a Palazzo Madama annuncia una riunione per decidere se espellere 4 senatori critici contro Grillo, e nel referendum online per la legge elettorale vincono i sì alle soglie di sbarramento. Un'assemblea del gruppo 5 Stelle a Palazzo Madama deciderà settimana prossima se avviare la procedura di espulsione di 4 senatori dissidenti. Sono Lorenzo Battista, Fabrizio Bocchino, Francesco Campanella e Luis Alberto Reiana. Lo ha annunciato il capogruppo Maurizio Santangelo. I parlamentari avevano espresso critiche a Grillo dopo il faccia a faccia con Renzi nel corso delle consultazioni per il nuovo governo. Per questo il comico li aveva attaccati sul suo blog. Il codice di comportamento degli eletti grillini prevede l'espulsione in caso di palesi violazioni delle regole previste, previa decisione adottata dagli iscritti sul portale del movimento. Sotto pressione soprattutto il senatore Luis Alberto Reiana, eletto nel Pavese, da tempo non più in sintonia con gli iscritti della sua zona. Reiana è stato sfiduciato dal territorio, ha scritto lo stesso Grillo in un tweet. Finora le espulsioni hanno riguardato 2 senatori, Marino Mastrangeli e Adele Gambaro. E per quanto riguarda la consultazione online sulla legge elettorale, hanno vinto i sì alle soglie di sbarramento. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemano, e l'ex presidente della regione Lazio, Renata Polverini, sono indagati per finanziamento illecito a un esponente politico. Renata Polverini, Gianni Alemano e altre 7 persone, in tutto 9 indagati, nel mirino una provvista di 30.000 euro realizzata con false fatture dalla società di consulenza Accenture destinata ad un falso sondaggio sulla qualità dei servizi scolastici, fatti avvenuti nel 2010 in prossimità delle elezioni regionali del Lazio vinte dalla Polverini. L'ex governatrice e l'ex sindaco di Roma sono accusati di finanziamento illecito ai partiti. Fabio Ulissi, stretto collaboratore di Alemano, e Giuseppe Verardi, ex manager della società di consulenza, sono gli arresti domiciliari per frode fiscale. Un'inchiesta che ha preso le mosse da una denuncia della stessa società che Alemano avrebbe contattato 4 anni fa per commissionare un'attività di sondaggio senza pagarne il corrispettivo e lucrando dunque in favore del gruppo politico di appartenenza la somma di 25.000 euro. Si trattava in realtà di una vera e propria attività di telemarketing volta a promuovere la lista del PDL del candidato alla presidenza della regione Polverini. Un interesse diretto, quello di Alemano, secondo gli inquirenti, in quanto nel listino era candidata anche sua moglie Isabella Rauti, accuse che i diretti interessati respingono con forza. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E lo sentivamo prima Renzi all'inizio, che diceva alla fine della sua conferenza stampa, dopo aver presentato la lista dei ministri: non vi voglio far far tardi, diceva ai giornalisti, a tutti, perché c'è Sanremo. E quindi noi ci colleghiamo direttamente con la nostra inviata a Sanremo, Marta Cagnola. Ciao Marta. Pronto Marta? Chi è che bisticcia? C'è qualche... in una collusione. Va bene, proviamo semmai dopo. Oggi giornata di imprevisti, insomma, imprevisti per qualcuno, anche tanti nomi della lista dei 16 ministri, ministri e ministri, 8 e 8, 8 donne e 8 uomini del governo Renzi. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Marta Cagnola, c'è Renzi che sottolinea l'importanza di Sanremo e tu scompari nel nulla. Ho pensato ci fosse un No, è una congiura. Il telefono ha cominciato a fare rumori strani e poi sei scomparsa. Ma io sono qua, te lo assicuro. Senti, Marta, mi hanno detto a proposito di essere là che visto che Renzi ha il dono dell'ubiquità e anche multitasking, come dicono molti, sa fare più cose contemporaneamente. È vero che stasera è l'ospite più atteso lì, Renzi? Ma sai che quando lui ha detto facciamo presto perché dobbiamo vedere Sanremo qua, sono stati tutti molto contenti perché insomma, la cosa ha reso tutti molto felici, perché effettivamente c'era un po' di attesa, perché immaginati se fosse arrivata in serata questa lista, insomma, avrebbe rovinato un po' insomma la scaletta, perché qualcosa bisognava fare. Però scusa Marta, se anche non ci sarà lui, perché mettiamo che abbia impegni più importanti, diciamo, è vero potrebbe esserci l'alter ego Maurizio Crozza? Allora Maurizio dovrebbe arrivare, però a noi Maurizio noi in realtà lo aspettiamo per domani sera, però lo aspettiamo e adesso non so cosa farà, perché se ben ti ricordi l'anno scorso fu abbastanza fischiato, contestato con Berlusconi. Fu un momento abbastanza delicato, quindi non so bene cosa potrà succedere quest'anno, però ci sarà e quindi è una sfida interessante. Quindi domani sera, non stasera diciamo ospiti di punta. Allora, questa sera, intanto è tutta una serata di ospiti, perché ci sono i duetti, il che vuol dire che ogni cantante, quasi tutti i cantanti si sono portati un amico, un collega, in questo momento ci sono Francesco Farcina con Riccardo Scamarcio, per eseguire delle canzoni della storia. Ah, ho capito perché ti eri assentata brevemente, ora capisco con Scamarcio. Riccardo Scamarcio, sì, è una passione, ma insomma devo dirti che ci sono dei bei nomi stasera, devo dirti che il primo super ospite è divertente, perché tra poco ci sarà Silvan e non so cosa succederà con Banco Silvan. Il tizzetto ha promesso grandi cose, invece che eliminare quelli che vanno fuori dalla gara potrebbe farli scomparire lui. Comunque grazie Marta Cagnola, a presto, mi raccomando non scomparire a tua volta per il prossimo collegamento. Noi invece adesso, prima di addentrarci nella giornata politica di oggi e per commentare invece i ministri, le vostre opinioni anche su queste figure, alcune veramente a sorpresa, diciamo, vi ricordo prima i titoli, vi ricordo anche il numero verde per intervenire, 800 24 00 24. Partiamo dai titoli. Renzi fa il governo metà donne metà uomini e varie sorprese. Mi gioco la faccia, dice, quasi tre ore al colle, ma Napolitano assicura nessun braccio di ferro. Ucraina, la piazza Kiev accetta l'accordo col presidente Yanukovych, ci saranno elezioni entro il 2014. L'inflazione in Italia è ferma allo 0,7%, ma al supermercato invece i prezzi crescono del doppio. E alle Olimpiadi invernali, brutta sorpresa, fuori dai giochi di Sochi per doping uno degli azzurri del bob, mentre la Fontana viene eliminata dai 1000 metri di short track. Tenetevi pronti allora col numero verde 800 24 00 24 per i vostri commenti su questa squadra di governo. E prima invece occupiamoci brevemente di Europa, di un argomento comunque molto interessante, ci riguarda tutti molto da vicino, anche la nostra salute. Parliamo di OGM, 40 anni di discussioni in Europa senza ancora essere arrivati a una soluzione. Marcello Bugliatti, docente di biotecnologia all'Università di Pisa, denuncia l'assenza di un'autorità indipendente per la valutazione delle sementi modificate. L'EFSAC, cioè questo organismo di controllo, spiega Bugliatti, non ha laboratori indipendenti. L'ho intervistato Claudio Vanni. Europa 24 notte. Verso le europee. Negli anni 70 venne sperimentata per la prima volta, negli anni 90 arrivarono le prime normative europee per valutare i rischi, negli anni 2000 se ne continua a discutere. La modificazione genetica degli organismi è un tema caldo in Europa, soprattutto perché non esistono organi di controllo certi con laboratori indipendenti, come denuncia il professor Marcello Bugliatti, docente di biotecnologie all'Università di Pisa. L'EFSA dovrebbe essere l'agenzia per il controllo indipendente, soltanto che non ha laboratori indipendenti. Se hanno dei dubbi, questi dubbi non vengono dati da verificare a laboratori indipendenti, ma alle imprese produttrici, controllore controllato, insomma, cosa che è proibita in tutti i testi unici sul rischio. C'è delle linee guida che sono state fatte da una persona che poi si è dimessa ed è diventata capo di marketing di Syngenta, che è una delle tre grandi imprese multinazionali che fanno OGM. Per cui io non le so dire se sono pericolosi o non pericolosi, perché non abbiamo un'agenzia che controlli. Basta chiedere direttamente all'EFSA, la European Food Safety Authority, l'autorità in questione, per ricevere la conferma che le cose stanno veramente così. Per alcuni poi le coltivazioni OGM rappresenterebbero più che un danno alla salute umana, un rischio per le agricolture locali di piccole e medie dimensioni. Il docente di biotecnologie Buiatti riporta l'esempio dell'America Latina. In Brasile, Argentina e Paraguay è stata ammessa l'entrata di OGM e delle multinazionali naturalmente che hanno gli OGM, hanno mandato via i contadini dalle loro piccole terre, loro c'erano delle piccole aziende di grandezza come le nostre italiane praticamente in quella zona, in cui coltivavano miglio, coltivavano mais, coltivavano roba da mangiare, e tutte queste zone, tutte queste piccole aziende contadine sono state riunite in grandissime facendas, lì addirittura 100.000, 150.000 ettari l'una, tutte a soia. Il pericolo che io temo, per esempio, per l'Italia è esattamente questo. La disputa OGM sembrerebbe quindi tutta di carattere politico-economico più che sanitario-scientifico. Pur partendo da una posizione pro-OGM, è dello stesso parere il professor Pier Domenico Perata, docente di fisiologia vegetale nonché rettore della Scuola Superiore Sant'Anna. Sì. Le chiusure sul piano politico vengono fatte adducendo presunte evidenze scientifiche di pericolosità, allora questo è un errore clamoroso. Se invece le decisioni politiche vengono fatte perché si ritiene che sul piano economico gli OGM non siano vantaggiosi per l'economia, per l'agricoltura del nostro paese, allora la decisione politica è in quanto tale legittima. Sul piano scientifico non vi sono evidenze che supportino una obiezione all'uso degli OGM. Secondo me, in buona parte anche a livello europeo, la situazione è simile. Vi è una posizione di obiezione politica agli OGM, che, lo ribadisco, è legittima, ma che nulla a che fare con la presunta pericolosità degli OGM. Claudia Vanni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 Notte, in collaborazione con Euronet Plus. Ed eccoci finalmente nel vivo della puntata di questa sera con la politica italiana, naturalmente con il novello governo Renzi. E per le vostre opinioni la pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero verde eccezionalmente questa sera 800 24 00 24. E comincio subito con il salutare il professor Gianfranco Pasquino. Bentornato professore. Grazie dell'invito. Politologo e presidente della Società Italiana di Scienza Politica. Naturalmente, prima domanda, professor Pasquino, che ne pensa del tweet che ha fatto Renzi quando era ancora da napolitano? Arrivo, arrivo. È un modo, proprio, vuole essere diverso fino in fondo, Renzi? Sì, basta che sia non solo diverso, ma anche migliore, perché se è soltanto diverso non miglioreremo noi. E dunque ha un compito un pochino più complesso di quello che mi sembra che finora abbia percepito. E infatti non era questa la domanda principale, era naturalmente un tranello per il professor Pasquino, che è sempre prontissimo a rispondere, ma questo effettivamente era stato oggi un fatto di costume un po' particolare che ha sorpreso tanti, cioè così preso dalla tecnologia e dalla velocità di comunicazione Renzi che, mentre era ancora a discutere con Napolitano, ha fatto questo tweet. Che ne pensa, questa è la domanda della squadra di governo, dei 16 ministri e ministre, 8 e 8? Professore. Ma qui bisogna avere dei criteri. Allora, se Renzi voleva tutto nuovo non ha potuto avere, perché doveva tenere conto ovviamente degli alleati e in particolare del nuovo centrodestra, e che ha confermato tutti i suoi ministri. Se Renzi voleva dimostrare che è in grado di reclutare delle donne capaci, ha certamente reclutato anche delle donne capaci, non credo tutte, ma qui bisognerebbe scendere nei particolari. A me spiace molto che abbia sostituito il ministro degli esteri Emma Bonino, sia perché credo nella continuità della politica estera, sia perché penso che Emma Bonino sia una donna eminentemente qualificata. Ciò detto, la Mogherini che succede alla Bonino mi pare ugualmente una donna capace. Vedo maggiori problematiche invece per quello che riguarda proprio il punto più rilevante dei problemi del Paese, e cioè un ministro dell'economia che si pensava dovesse essere politico e invece è per Carlo Padoan, che è un incidentalmente tecnico. È molto capace, cioè un tecnico ma con una grande competenza e una statura internazionale, quindi non è sulle qualità che obietto ma è sul suo potere politico. E poi vedo invece qualche contraddizione per quel che riguarda il resto, cioè un'imprenditrice come la Guidi, che è notoriamente una donna una di centrodestra o se non addirittura di destra, che deve rappresentare la voce degli industriali che sono stati molto critici con Letta, ma non hanno mai detto che cosa bisognerebbe fare, e d'altro canto il rappresentante massimo della Lega delle Cooperative al lavoro, cioè vedo una qualche difficoltà poi a comporre la loro attività, e qui entra in campo da un lato Padoan e dall'altro Letta stesso, di cui aspettiamo il Job Act perché non abbiamo ancora visto nulla. Quindi a proposito di donne, vedo per esempio che c'è Roberta Pinotti, no, che è la ministra della difesa, è la prima nella storia della Repubblica Italiana, e tra l'altro Renzi ci ha tenuto, vediamo se abbiamo anche quella parte di Renzi dove dice ci sono metà donne, l'ha detto con un certo orgoglio, a me personalmente fa piacere, è vero che si dice sempre guardiamo la qualità, non importa uomini e donne, ma quando si dice così si intende che si facciano soprattutto uomini e poi magari una quota rosa. In questo caso ha cercato, pur non ripristinando il Ministero delle Pari Opportunità, di metterle nel concreto, di realizzarle nel concreto facendo appunto una squadra a metà. Sentiamo Renzi. Per la prima volta l'Italia ha un governo che è fatto per metà da donne, è un governo che è composto da 16 persone, siamo andati a scrutare il dato più interessante che abbiamo trovato, è un De Gasperi 3 con 15 ministeri, ma non era una competizione, nessuno si può naturalmente paragonare. Quindi almeno rivendica anche, tra l'altro, non solo un governo metà e metà, professor Pasquino, ma anche snello, sono 16 ministri. Se io avrei evitato il riferimento De Gasperi, Renzi non ha nessuna possibilità di arrivare a quell'altezza. Per quel che riguarda la Pinotti, devo dire che ci sono già ministri della difesa donne in alcuni in paesi Italia? Europei. Ah, no, io dicevo nell'Italia, in Italia, la storia repubblicana. Certo, no, ma però è bene anche avere una visione comparata. Certo. Germania e Danimarca, e quindi va benissimo. Fra l'altro la Pinotti è una donna competente, era nella commissione difesa e quindi sa di che cosa si parla. E per il resto il problema naturalmente è che in questo caso un governo scelto in questo modo, sul quale può anche esserci una parte di imprimatur del Presidente della Repubblica, è però sostanzialmente il governo di Renzi, e quindi lui deve poi essere in grado di coordinare la squadra e di farlo operare nelle direzioni che ci dirà, perché ancora non ci hanno detto nulla, nelle direzioni programmatiche che esporrà, immagino, nel discorso per ottenere la fiducia alla Camera e al Senato. Sì, lunedì e martedì. Cominciamo a sentire anche gli ascoltatori. All'800 24 00 24 c'è Fabio da Bari. Salve, buonasera a tutti gli ascoltatori. Buonasera Fabio, quindi fresco di governo, hai già fatto le tue riflessioni su questa squadra? Sì, ho dovuto fare necessariamente le mie riflessioni, perché sostenitore fin dalla prima ora di Renzi, per il suo modo diverso rispetto agli altri, in realtà si è rivelato per quello che in realtà è, ovvero una persona che da un lato ha un modo tutto nuovo di comunicare, se vogliamo, diversamente rispetto a quanto quelli fino ad ora. Fabio era un po' emozionato, mi è sembrato, anche il suo telefono. Sandra da Milano. Pronto? Sandra, dovresti però spegnere la radio se ce l'hai accesa, eh? Sì. Ecco, grazie. Ma io sono abbastanza contenta. E purtroppo devo dire che con 8 milioni di voti che aveva preso Grillo avrebbe potuto avere una parte in questo governo, se non altro per rispetto a chi ai milioni che l'hanno votato, ma ha rifiutato totalmente di partecipare. Quindi è chiaro che Renzi deve fare, diciamo, la cena con gli ingredienti che ha in casa, quindi ha fatto secondo me delle cose molto ben fatte, e naturalmente ha anche precisato che i 4 anni di legislatura è perché è per definizione che si danno 4 anni, ma le cose che farà si vedranno domani. Quello senz'altro, Sandra, che presenterà il programma. Sandra, ti ringrazio. Professor Pasquino, prima di fare questa pausa pubblicitaria e di ritornare dopo, che ne pensa anche della delusione di Sandra rispetto al Movimento 5 Stelle, che dice forse se fossero arrivati, diciamo, a un dialogo, a degli accordi, a trovare almeno dei punti programmatici in comune, farebbero parte di questa squadra? La verità è che non hanno i punti programmatici, sono ancora lì che discutono su scontrini, su come si prendono le decisioni sul web, e peraltro con una platea abbastanza distratta di loro stessi elettori, su come si giunge a espellere coloro che esprimono anche soltanto un dissenso limitato a punti specifici, e di lì è difficile avere delle proposte. Hanno delle proteste, qualche volta le devono rendere eclatanti perché vogliono dimostrare che esistono, però certamente non stanno dando rappresentanza politica ai loro elettori, e questo è un guaio, soprattutto per loro, mi auguro, ma certamente anche per gli elettori. Bene, pausa pubblicitaria, per voi sempre il numero verde 800 24 00 24, poi ci saranno insieme al professor Pasquino tra poco anche altri ospiti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, stiamo parlando del nuovo governo messo in campo da Renzi, con i vostri apprezzamenti o disapprezzamenti, diciamo, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia attraverso eccezionalmente questa sera le telefonate al numero verde 800 24 00 24. Prima di riprendere le chiacchierate con voi e con gli ospiti, vi ricordo quali sono stati i titoli principali di oggi. Nasce il governo Renzi, metà donne e metà uomini, ora mi gioco la faccia, dice il nuovo premier. Domani il giuramento. Ucraina, la piazza Kiev dopo la guerra civile, accetta l'accordo col presidente Yanukovych e dovrebbero essere previste elezioni entro il 2014. L'inflazione in Italia è ferma al 0,7%, ma i prezzi ai supermercati crescono del doppio. E per le Olimpiadi invernali, fuori dai giochi di Sochi per doping uno degli azzurri del bob, mentre la pattinatrice Fontana è stata eliminata dai 1000 metri di short track. Bene, c'è sempre con noi il professore politologo Gianfranco Pasquino, ci ha raggiunto anche Alberto Rioli, vice direttore del Sole. Ciao Alberto. Ciao a tutti e buonasera a tutti. Alberto, da te volevo soprattutto un commento sul ministro all'economia Padoan, che è economista, professore, ha avuto un sacco di ruoli importanti nella sua lunga carriera, no? È stato all'OCSE, è stato recentemente nominato presidente dell'Istat, ma è stato anche alla Banca Mondiale, insomma, ha avuto un sacco di incarichi, un curriculum incontestabile, no? Sì, sì, non c'è dubbio, è la faccia utile, diciamo così, a questo governo per gli interlocutori internazionali e per la verità anche quelli ad uso interno, perché Piercarlo Padoan è stato il capo della Fondazione Italiani Europei, che è la fondazione vicina a Massimo D'Alema e quindi ha buone entrature anche nelle vecchie nomenclature del PD e non solo del PD. Detto questo, c'è una congiunzione di giornata interessante, perché oggi c'è praticamente l'eredità culturale dell'OCSE a cura Padoan rispetto a quello che i singoli paesi devono fare per la crescita, e c'è una nutrita scheda relativa all'Italia dove c'è praticamente esposto un programma vero di governo, cioè quello che bisogna fare è abbattere il cuneo fiscale, recuperare la produttività, puntare molto sullo sviluppo del manifatturiero e dell'industria per recuperare competitività, ma quello che serve, appunto, secondo la ricetta dell'OCSE, è un abbattimento drastico della tassazione sul lavoro e sulle imprese. Senti, però c'era questo tormentone ormai da tanto tempo, non deve esserci un tecnico, deve esserci finalmente un politico, perché i tecnici, tranne che i numeri, cose un po' rigide, eccetera, non capiscono molto, non entrano nella vita reale delle persone, poi non sanno mediare con la politica. Poi invece è stato nominato un tecnico. Pare da indiscrezioni che queste quasi tre ore tra Renzi e Napolitano fossero perché c'era poca sintonia anche su questo ministro che è stato forse imposto da Napolitano, è possibile? Ma guarda, domani i retroscena si scateneranno, io temo che molti si autoelimineranno a vicenda, per la verità, per quello che potranno raccontare, perché hai visto bene dal discorso che poi ha fatto il Presidente uscendo, non trapeleranno grandi difficoltà e grandi bracci di ferro tra il nuovo Premier e il Presidente della Repubblica, quindi a me risultava che c'era stata tensione anche su altri fronti, ma insomma credo che sia inutile accodarsi a questo tipo di ricostruzioni. Cioè, adesso c'è Padoan, era un nome che peraltro girava da parecchi giorni, quindi era uno dei più accreditati, ripeto, è sicuramente il volto che può convincere i mercati e gli interlocutori internazionali, che lui conosce benissimo, e non gli mancano anche intratture sul versante interno. Sentiamo ancora le voci degli ascoltatori e dell'ascoltatrice all'800 24 00 24. Umberto da Genova. Sì, Grazie della possibilità di intervenire in trasmissione. Grazie a te. Niente, volevo fare una considerazione. Io penso che questo governo di Renzi sia un po' come un malato terminale, nel senso che mi sembra un accanimento terapeutico, cercare di andare avanti con un governo che comunque deve comunque aiutare il centrodestra di Alfano, dove ha messo i suoi uomini nei punti più strategici. E quindi non lo vedo bene io questo governo, tantomeno al lavoro, come diceva Pasquini, io non credo che sia l'uomo adatto al Ministero del Lavoro, ecco. Avrebbe potuto fare di più, secondo me avrebbe dovuto provare a trovare la soluzione, a cercare dei nomi anche nel Movimento 5 Stelle, magari consigliati da loro, visto che comunque una bella parte degli italiani ha dato il voto. E sì, quindi... però hai visto, Umberto, che anche nello streaming che c'è stato 2 giorni fa, insomma, non c'era molto spazio per trovare un accordo o qualche forma, no, di partecipazione comune. Sì, scusami. Prego, Umberto, prego. Ha più volte mangiato la promessa che ha fatto, anche il corso di rottamare, uomini vicini ad Alema, tecnici. Questo governo, l'unica cosa che gli si può dire è che ha levato qualche ministero. Ecco, io adesso non so quanto possa resistere questo governo, lo vediamo quando gli daranno la fiducia, perché secondo me perderà qualche consenso dai fedelissimi. Grazie Umberto, però. Chiarissimo. Piero, riesce a essere sintetico da Padova, Piero? Sì, sì, ecco, no, volevo dire solo questo, che non è credibile Renzi, perché aveva giurato che mai avrebbe preso il posto di Letta, e questo l'abbiamo già detto, ormai purtroppo superato. Dopo questa essere fase. Stato eletto, invece, già da qua è partito con una grossissima bugia. E dopo non è credibile, perché secondo me si crede un Superman. Per cui vedremo adesso cosa sarà. Ma a parte questo, è uno scandalo che in pochi mesi noi abbiamo visto 3 governi diversi senza le votazioni. Ecco, questo fa più fastidio, penso, a tutti gli italiani, non solo al sottoscritto. Grazie Piero. Chiedo al professor Pasquino se si trascinerà questo peccato originale Renzi, o se riuscirà con questa squadra, nella quale tra l'altro ci sono dei nomi che anche, diciamo, a chi è più addentro, almeno giornalisti che ogni tanto si occupano anche di politica, non sono notissimi, come gli affari esteri Federica Mogherini, che magari tanti conoscono, avrà una lunga storia nei DS, diciamo, però ai più, e poi ce ne sono anche altri, Gianluca Galletti. Secondo lei c'è stato un po' di Manuale Cencelli, il famoso Massimiliano Cencelli, che nella Democrazia Cristiana fece questa specie di algoritmo per dare a tutti e far contenti tutte le parti, i partiti, eccetera, eccetera, in modo proporzionale? Prima di tutto dirò che la Mogherini è stata responsabile degli affari esteri del Partito Democratico, e fra l'altro l'ho anche incontrata e conosciuta, e parla bene l'inglese, che mi pare un che è già un'ottima cosa per il Ministero degli Esteri. E io ho fiducia nelle persone giovani che sono in grado di studiare e di imparare. Per quello che riguarda invece il Manuale Cencelli, da un lato il Manuale Cencelli è inevitabile, i governi di coalizione devono attribuire i ministeri sulla base di voti ottenuti dai partiti che ne fanno parte, quindi da un lato è inevitabile, dall'altro naturalmente deve essere integrato da qualche conoscenza, da qualche competenza che devono possedere i ministri. Io vedo che la base di partenza non è pessima, il nuovo centrodestra ha confermato i suoi ministri, immagino che in questi 10 mesi abbiano imparato molte cose, e Renzi ha innovato in maniera significativa. Naturalmente si possono avere delle riserve, io le ho, ma è inutile che critichi le varie persone. Credo che Renzi sia in grado di partire bene, e poi tutto il resto è suo, cioè i peccati originali di come è arrivato lì verranno dimenticati se lui riuscirà a cambiare molte cose, e soprattutto il cambiare il funzionamento complessivo dell'economia. Alberto Rioli, a proposito di economia, ultima domanda, poi ti lascio che so che devi scrivere per domani anche tu. Padoan, è vero che è stato consigliere economico di D'Alema quando era Presidente del Consiglio? Qualcuno dice la longa mano di D'Alema anche in questo caso. Sì, sì, è vero, era formalmente il consigliere di Palazzo Chigi ed è stato poi anche il direttore di Italiani Europei, la rivista e la fondazione creata da D'Alema stesso. Non c'è dubbio che lui ha un trascorso di vicinanza con l'ex leader di Essino, questo non c'è dubbio. Però è un economista di caratura internazionale che sicuramente potrà dimostrare al più presto, diciamo così, il tipo di di capacità. Abilità e di capacità che può mettere in campo. Quindi tu sei fiducioso come vice direttore del centro? Fiducioso no, diciamo che l'onere di confermare tutte le perplessità che da tutti gli ambienti stanno venendo fuori rispetto a questo governo è tutto in Matteo Renzi nel suo governo, ma non c'è dubbio che sembra più il governo di quelli della porta accanto, ecco, diciamo, è vero. Un governo così, ecco. Poi però devono andare a vedersela con la Merkel, con i due Marò e con gli indiani, ecco, ci sono tante sfide che effettivamente non so se il mio vicino di casa sarebbe in grado di superare, ecco. Mi piace questa definizione, sentiremo poi se è d'accordo anche il professor Pasquino, dopo saluteremo Antonio Polito. Intanto grazie Alberto Rioli, grazie, ciao, buon lavoro, ciao. Abbiamo la pubblicità, poi c'è sempre il numero per voi 800 24 00 24, c'è la viabilità, allora intanto sì, è a posto, a tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Siamo sempre insieme, in particolare questa sera, per parlare del nuovo governo Renzi. Poi abbiamo sentito che in Ucraina c'è stato un accordo tra opposizione e il presidente Yanukovych, per cui si dovrebbe riuscire a votare entro il 2014. E poi l'inflazione, che in Italia è ferma allo 0,7%, ma i prezzi poi corrono. Torniamo allora con l'argomento centrale di stasera, le vostre telefonate all'800 24 0024. Sentiamo molto sintetici, vi supplico, Raffaele da Brindisi. Sì, buonasera. Mio figlio sa l'inglese, è diplomato, potrebbe fare il ministro degli esteri. Bonino, oltre all'inglese, mi sembra che sa anche l'arabo. Però il mio intervento era sul fatto di quell'ultimo che ha parlato, ha buttato un po' di fango sui grilliti. Io penso che sono le persone più coerenti in questo momento che esistono lì in Parlamento, e se si sarebbero messi con Renzi, vedremo fra poco cosa succederà in quel governo, perché non è cambiato completamente niente. Raffaele, ti ringrazio e chiedo ad Antonio Pulito, che saluto. Antonio? Ciao, buonasera, ecco, bentornato. Ciao. Direttore del Corriere del Mezzogiorno, editorialista del Corriere della Sera. Antonio, se sei d'accordo che con questo governo Renzi non cambia niente, che ci può essere delusione, invece Alberto Rioli, prima vice direttore del Sole 24, ha detto mi sembra il governo della porta accanto. Qual è la tua impressione? Ma insomma, cambia molto perché cambia Renzi, nel senso che un primo ministro completamente nuovo, diverso. Voglio ricordare che Renzi non è neanche un parlamentare, ed è il più giovane premier della storia unitaria, quindi certamente cambia molto. Cambia poco sul piano della composizione del governo, perché questo poi alla fine è un governo che nasce pur sempre in un mondo antico, con un Parlamento che non ha una maggioranza elettorale, con una costruzione di sigle, con un paese, l'Italia, ancora sotto osservazione in Europa, quindi certamente una novità risente di tutta questa anticità. E diciamo che il personale scelto non è di primissimo piano, ecco, questo mi sembra abbastanza vero. È un inevitabile rischio quando di gente nuova, no? Perché la gente nuova può essere di seconda fila. Certo, ma Antonio, ti sento un po' male, ma volevo capire, vuoi fare qualche nome, ti vuoi esporre su qualche nome che non ti soddisfa di questi 16 ministri o cosa? Ma io innanzitutto vorrei segnalare il fatto che la troica economica è un po' troppo assortita. C'è Padoan, che è un tecnico, quindi non è quello di Cosa Renzi, un uomo suo, ma è un uomo delle istituzioni finanziarie. In questo non molto dissimile da quanto lo fosse Saccomanni o prima di lui Grilli. E poi c'è un esponente di Confindustria come la Guidi allo sviluppo economico e un esponente della Lega Coop al lavoro. Non credo che siano proprio... Che riusciranno a essere in sintonia, dici. In materia di rilancio della crescita dell'economia. C'è una scelta azzardata, ma io spero vincente, agli esteri, dove al posto di una delle italiane più note nel mondo, Bonino, stimate, cioè, ma Bonino è stata messa una delle migliori giovani parlamentari, che è la Mogherini a mio parere, ma che deve imparare tutto da capo, un mestiere nuovo e molto difficile, tra l'altro siamo in piena crisi dei Marò. Secondo te perché non c'è stato, scusa Antonio? Sono molte scelte, però ripeto, da un lato quando cambi è un po' un rischio, dall'altro i grandi nomi, le star, che erano anche un po' Antonio, mi sa che ti dobbiamo richiamare perché si sente molto male il telefono. Allora passo a Gianfranco Pasquino. Professore, lei ha sentito che probabilmente c'è questa clausola che in accordo con il nuovo centrodestra, oltre a riconfermare Lupi e Lorenzin, che sono il nuovo centrodestra, con Alfano, tra Renzi e Alfano c'è stato anche l'accordo di una clausola contro il voto anticipato. Io non credo molto a queste clausole, nel senso che se per caso le cose vanno molto male e si offre la necessità di andare ad elezioni, si andrà sperabilmente con una legge elettorale diversa da quella vigente e aggiungo anche diversa da quella proposta da Renzi, che in realtà è la legge elettorale Renzi-Berlusconi, e poiché Berlusconi non c'entra niente con questo governo, forse Renzi dovrebbe prendere anche in questo caso un po' di autonomia decisionale e consultare l'alleanza di governo. Prima la legge si fa lì dentro e poi si va a vedere come si situano gli altri, Berlusconi e anche Grillo, se mai Grillo decidesse di parlare di cose concrete. Lo dico anche all'ascoltatore che si è lamentato, perché noi non sappiamo che cosa voleva Grillo, visto che ha passato il suo streaming con Renzi a impedire a Renzi di parlare e gli ha semplicemente urlato in faccia, e questa non mi pare una strategia né politica né parlamentare, e soprattutto che abbia pochissimo a che vedere con la voglia di esercitare influenza, è semplicemente la voglia di esercitare irruenza e violenza. Sentiamo Carmine da Lecce, sempre al numero verde 800 24 00 24, purché sintetico. Carmine, ti prego, e spegni la radio. Carmine in macchina, sta guidando e si è confuso evidentemente, non ha appoggiato il telefono sul sedile. Antonio Pulito, vediamo il tuo telefono se funziona meglio adesso, d'altronde ci sono tanti telefoni in diretta. Antonio, io vi sento. Bene, ti sentiamo benissimo anche noi. Dicevo prima col professor Pasquino degli accordi col nuovo centrodestra, di questa clausola forse di cui si parla contro il voto anticipato fatta con Alfano. Secondo te chi è rimasto un po' a bocca asciutta? C'è qualcuno che è rimasto a bocca asciutta o il manuale Cencelli ha funzionato anche stavolta? Insomma, tutti hanno avuto qualcosa, non pare che ci sia, tutti diciamo quelli che avevano qualcosa da avere. Poi ci sta, adesso arriverà la fiera di sottosegretari e viceministri, bisogna vedere lì quanti altri appetiti verranno soddisfatti. D'altra parte, ripeto, è una coalizione fatta di 9 sigle diverse, è un po' inevitabile che sia così, cioè qui si mettono insieme il massimo dell'ambizione al cambiamento, cioè Renzi, con il massimo della situazione bloccata, che è il nostro Parlamento attuale, e anche la situazione, diciamo così, di difficoltà in cui il Paese versa dal punto di vista dei rapporti con l'Europa, del debito, dell'economia. Quindi è impossibile meravigliarsi del fatto che poi è un governo che per molti aspetti ha caratteristiche di quelli precedenti. Ripeto, la grande novità è Renzi. Questa clausola di cui si parla è saggia, non so se c'è, ma in ogni caso dovrebbe essere quasi scontato che sia così, perché siccome la nuova legge elettorale prevede la possibilità del ballottaggio, non è possibile immaginare due ballottaggi, uno per la Camera e per il Senato, perché potrebbero dare anche risultati opposti, e quindi è evidente che quella legge elettorale non regge se non si abolisce prima il Senato elettivo. D'altra parte potrebbe anche questa clausola garantire che subito dopo l'approvazione elettorale della legge elettorale non si vada al voto, come qualcuno forse spera. Già, questo potrebbe essere probabile. Io intanto ringrazio Antonio Pulito, il professor Gianfranco Pasquino, grazie. Grazie a voi. Ci ritroviamo presto e insomma abbiamo concluso praticamente che tra le questioni economiche, la profonda crisi che ci attanaglia, le riforme in attesa da tanto tempo, la questione dei Marò, sul tavolo ci sono tantissime sfide e non si può altro che fare gli auguri a questo nuovo governo Renzi. Ci sentiamo tra poco.